Capitolo 33. Quando St. John se ne andò, cominciava a nevicare. La neve continuò a cadere tutta la notte e il giorno seguente un vento gelido portò con sé un'accecante tormenta. Verso sera la vallata era quasi impraticabile. Avevo chiuso le imposte e steso una stuoia dalla parte interna della porta per evitare che la neve penetrasse in casa. E dopo essere rimasta circa un'ora accanto al fuoco ad ascoltare la furia della tempesta, accesi una candela e cominciai a leggere Marmion. Il sole tramontava dietro i castelli di Norham, dietro le belle rive del Tweed profonda, dietro i solitari monti di Cheviot, le forti torri, il mastio, le mura che a difesa le circondano, tutto brillava di una luce gialla. La musicalità dei versi mi fece dimenticare la tormenta. Udii un rumore e pensai che fosse il vento contro la porta, ma invece era St. John che alzava il chiavistello. Era venuto sfidando la bufera gelata e la notte paurosa, ed ora mi stava dinanzi con il mantello bianco come un ghiacciaio. Ero stupefatta. Tutto mi sarei aspettata, fuorché ricevere una visita dalla valle a quell'ora di notte e con un tempo simile. «Ci sono forse cattive notizie?» chiesi. «È successo qualche cosa?» «No, come si allarma facilmente?» rispose levandosi il mantello e appendendolo alla porta, verso la quale sospinse la stuoia che aveva smosso entrando, poi scosse la neve dalle scarpe. Insudicerò il suo pavimento lucido, disse, ma per una volta vorrà scusarmi. Poi si avvicinò al focolare. Non è stato facile arrivare fin qui, glielo assicuro, osservò scaldandosi le mani alla fiamma. A un certo punto sono affondato fino alla cintola, per fortuna la neve è molto soffice. Ma perché è venuto? Non potei trattenermi dal chiedergli. «È una domanda poco cortese verso un ospite, ma dal momento che me l'ha rivolta risponderò che desideravo avere un breve colloquio con lei. Ero stanco dei miei libri e della solitudine della mia stanza. Del resto da ieri in poi sono nello stato di chi ha udito la metà di un racconto ed è impaziente di saperne la conclusione». Egli si sedette. Mi ricordai il suo strano contegno della sera precedente e cominciai a pensare che fosse squilibrato. Ma anche se lo era, si trattava di uno squilibrio freddo e controllato. Mai come ora avevo veduto i suoi bei lineamenti più simili al marmo che nel momento in cui si era gettato indietro i capelli intrisi di neve, scoprendo la fronte e il volto pallidissimi. La luce del focolare mi rivelò le tracce che i dolori e le preoccupazioni vi avevano inciso e ne fui rattristata. Rimasi silenziosa, aspettando che mi dicesse qualche cosa che mi aiutasse a comprendere, ma la sua mano era posata sul mento e un dito chiudeva le labbra. Egli pensava. Mi colpì il fatto che la mano era smagrita come il viso. Un'ondata di pietà involontaria mi riempì il cuore ed esclamai: «Oh, vorrei che Diana e Mary potessero stare con lei. È male vivere così solo, trascura troppo la sua salute». «Tutt'altro», egli rispose, «quando è necessario mi curo. Ora sto bene. Che cosa nota in media normale?» Disse queste parole con indifferenza, il che mi provò che la mia sollecitudine era, almeno ai suoi occhi, del tutto superflua. Così tacqui. Egli continuava a tormentarsi il labbro superiore con il dito e a tenere gli occhi fissi sul fuoco. Per rompere il silenzio gli domandai se dalla porta, che era alle sue spalle, non entrava una corrente d'aria. «No, no», rispose bruscamente. «Bene», riflettei, «se non vuoi parlare, taci. Io ritorno al mio libro». Smopolai la candela e ripresi a leggere Marmion. Ad un tratto si scosse e il mio sguardo fu subito attratto dai suoi movimenti. Trasse di tasca un portafogli, ne prese una lettera, la lesse in silenzio, la ripose di nuovo e ricadde nelle sue meditazioni. Era impossibile tentare di leggere avendo dinanzi quel viso imperscrutabile, né sarei più riuscita con la mia impazienza a stare ancora zitta. Mi rimproverasse pure, ma io dovevo parlare. «Ha ricevuto notizie di Diana e Mary recentemente?» «No, dall'ultima lettera che le mostrai una settimana fa. Non è avvenuto alcun cambiamento nei suoi programmi? Non sarà forse chiamato a lasciare l'Inghilterra prima del previsto?» «Temo di no, sarebbe una fortuna troppo grande perché sia veri». Avevo fallito il colpo. Bisognava tentare con altri argomenti. Decisi di portare il discorso sulla mia scuola e sulle mie allieve. «La madre di Mary Garrett sta meglio e Mary è ritornata a scuola stamane. La settimana prossima avrò 4 nuove ragazze della fonderia. Sarebbero venute già oggi se non vi fosse stata la neve». «Ah sì? Il signor Oliver è molto generoso». «Davvero?» «Ha intenzione di invitare la scuola al completo per Natale». «Lo so. E forse un suo suggerimento?» «No». «Di chi allora?» «Di sua figlia, credo». «È probabile, è così buona». «Sì». Di nuovo sopravvenne una pausa. L'orologio, suonando le 8, lo fece scuotere. Allora si alzò e, voltandosi verso di me, disse: «Lasci un momento il libro e venga più vicino al fuoco». Ubbidii, colta da uno stupore senza limiti. «Mezz'ora fa», gli continuò, «le espressi la mia impazienza di udire la fine di un racconto, ma riflettendo ho pensato sia meglio che assuma io la parte del narratore e lei quella di ascoltatrice. Prima di cominciare devo avvertirla che la storia le parrà un po' vecchia, ma i particolari di un racconto ritrovano talora un po' di freschezza quando passano attraverso altre labbra, del resto vecchia o nuova che sia, la storia è breve. 20 anni fa un povero pastore, il suo nome non conta, si innamorò della figlia di un ricco signore. Anch'essa lo amava e lo sposò nonostante i consigli dei parenti che la rinnegarono immediatamente. Prima che fossero trascorsi 2 anni, la coppia temeraria non esisteva più e marito e moglie giacevano fianco a fianco sotto la stessa pietra. Ho visitato la loro tomba nel gran cimitero dietro la cupa cattedrale di una popolosa città manifatturiera della contea di... Lasciarono una figlia, la quale fin dall'infanzia fu raccolta nel seno della carità, un seno freddo come i ghiaccioli che il vento fa volteggiare questa notte. La carità portò quell'essere abbandonato nella casa di ricchi parenti della madre. Fu educata da una zia d'acquisto chiamata, vengo ai nomi ora, signora Reed di Gateshead. Ma lei trema, ha forse sentito un rumore? Sarà un topo che rosica le pareti dell'aula qui accanto. Era un granaio prima che la facessi restaurare e i granai sono in genere infestati dai topi. Continuiamo. La signora Reed tenne l'orfana presso di sé per 10 anni. Se fosse felice con lei nessuno me lo ha mai detto, ma alla fine di quel periodo la bambina fu trasferita in un luogo che lei pure conosce, a Lowood, dove lei stessa è stata per tanto tempo. Pare che si comportasse bene, da allieva diventò maestra come lei. Sono veramente colpito dai punti di contatto che esistono tra la storia di quella ragazza e la sua, signorina Jane. Lasciò Lowood per diventare istitutrice. Anche in questo la sua sorte è analoga. Ella intraprese l'educazione della pupilla di un certo signor Rochester. «Signor Rivers!» esclamai. «Indovino i suoi sentimenti. Li reprima per un momento, ho quasi finito. Ascolti la conclusione. Del carattere del signor Rochester non so nulla, all'infuori del fatto che gli offrì un matrimonio onorevole alla ragazza, ma che davanti all'altare si scoperse che gli aveva una moglie ancora viva, anche se pazza. Quale sia stato il suo comportamento dopo questo episodio e quali le sue giustificazioni è pura congettura, ma quando si verificò un fatto che rese necessario cercare l'istitutrice, si seppe che era fuggita. Nessuno poté scoprire quando né dove fosse andata. Ella aveva lasciato Thornfield di notte e tutte le ricerche rimasero infruttuose. Si percorsero tutti i dintorni senza avere sue notizie, eppure il trovarla divenne una necessità di estrema urgenza. Furono messi annunci in tutti i giornali. Io stesso ricevetti una lettera da un certo signor Briggs, procuratore, che mi comunicava tutti i particolari che le ho riferito. Non è una strana storia?» Risposi soltanto a questo, dissi. «Dal momento che lei sa tante cose, certamente potrà darmi notizie del signor Rochester. Dov'è? Che cosa fa? Sta bene?» «Non so nulla del signor Rochester. La lettera non ne parla se non per rivelare i suoi propositi illegali e fraudolenti. Dovrebbe piuttosto domandarmi il nome dell'istitutrice e la natura dei fatti che motivarono sì affannose ricerche. Nessuno è andato dunque a Thornfield da allora? Nessuno ha più visto il signor Rochester?» «Ritengo di no. Ma gli hanno scritto almeno?» «Certo. E che cosa ha risposto? Chi ha la sua lettera?» «Il signor Briggs mi dice che la risposta alla sua lettera non è stata scritta dal signor Rochester, ma da una donna, una signora che si è firmata Alice Fairfax». Mi sentii tutta di ghiaccio. Dunque i miei timori erano fondati. Egli aveva probabilmente lasciato l'Inghilterra e, spinto dalla disperazione, era ritornato sul continente a rincorrere forse qualche fantasma del passato. E quali sollievi per le sue sofferenze, quali sfoghi per le sue forti passioni gli aveva cercato laggiù. Non osavo rispondere a quella domanda. Oh, mio povero padrone, lui che era stato quasi mio marito, che avevo così spesso chiamato mio caro Edward. Doveva essere un uomo cattivo, osservò il signor Rivers. Lei non lo conosce, non esprima quindi un'opinione su di lui, dissi con calore. Benissimo, mi rispose pacatamente. Del resto altro cui pensare che non a lui. Devo finire il mio racconto. Dal momento che lei non vuole chiedermi il nome dell'istitutrice, glielo dirò io, aspettilo qui. È sempre meglio vedere le cose importanti fissate dall'inchiostro sulla carta. Prese di nuovo il portafogli, lo aprì, vi guardò dentro. Da una delle divisioni tolse un pezzetto di carta tutto cincischiato. Riconobbi in quel frammento tinto di vermiglio, di celeste ed azzurro cupo il margine strappato alla velina che copriva il ritratto della signorina Oliver. Egli me lo pose sotto gli occhi ed io vi lessi scritto di mio pugno in inchiostro di china: Jane Eyre. Forse avevo tracciato quelle parole in un momento di distrazione. Briggs mi scriveva appunto di una certa Jane Eyre, continuò, e anche gli annunci dei giornali citavano quel nome. Io conoscevo una Jane Elliott, ma confesso di aver avuto dei sospetti. Tuttavia, fu soltanto ieri nel pomeriggio che diventarono certezza. Ammette che quello è il suo vero nome e rinuncia allo pseudonimo? Sì, sì, ma dov'è il signor Briggs? Forse ha notizie più recenti delle sue sul signor Rochester. Briggs è a Londra e credo che non sappia nulla del signor Rochester, perché non è lui che lo interessa. Lei dimentica il punto essenziale per soffermarsi sui particolari inutili. Non le viene fatto di chiedersi perché il signor Briggs la cerca e ha bisogno di lei? Perché dunque? Soltanto per dirle che suo zio, il signor Eyre di Madera, è morto e l'ha lasciata erede di tutta la sua sostanza e che ora lei è ricca. Soltanto per questo. Io? Ricca? Sì, ricca, una ricca ereditiera. Vi fu un momento di silenzio. Lei ora deve provare la sua identità, continuò St. John, ma ciò non presenta alcun ostacolo e allora potrà entrare subito in possesso dell'eredità. Il patrimonio è impiegato in fondi inglesi. Briggs ha il testamento e tutti i documenti necessari. Una nuova pagina della mia vita si era aperta e una cosa piacevole, lettrice, passare in un istante dall'indigenza all'agiatezza, molto piacevole. Ma non è una cosa che si possa capire subito e di cui ci si possa quindi subito rallegrare. E poi vi sono gioie più inebrianti nella vita. Un patrimonio è un bene solido, terreno, e non ha nulla di ideale. Tutto quanto si associa ad esso è calmo e calcolato. E la gioia che arreca non si manifesta entusiasticamente. Sapendo di essere ricchi si comincia a considerare le responsabilità che ne derivano e a pensare agli affari. Si rimane, è vero, soddisfatti, ma immediatamente sorgono in noi gravi preoccupazioni e ci soffermiamo a meditare sulla nostra felicità con viso serio. Inoltre, le parole testamento, legato, si associano alle parole morte, funerale. Avevo saputo che mio zio era morto. Era il mio solo parente. Da quando ero arrivata all'età della ragione, accarezzavo la speranza di conoscerlo un giorno. Ora quella speranza era distrutta. Poi quel denaro veniva a me sola e non avevo una famiglia con cui dividerlo. Tuttavia era pur sempre una grande felicità. L'indipendenza sarebbe stata un dono stupendo e quel pensiero mi riempiva il cuore di gioia. «Finalmente solleva la fronte», disse il signor Rivers. «Credevo che Medusa, guardandola, l'avesse tramutata in pietra. Forse vorrà sapere a quanto ammonta il patrimonio?» «Sì. Oh, uno scherzo. 20.000 sterline, mi pare che abbiano detto. Ma che cos'è, dopo tutto?» 20.000 sterline. A quel punto vi fu un nuovo silenzio. Avevo calcolato che l'eredità ascendesse al massimo a 4.000 o 5.000. Quella cifra mi tolse il respiro. St. John, che non rideva mai, scoppiò in una risata. Se avesse commesso un delitto e fossi venuto a dirle che è stato scoperto, non avrebbe un aspetto più spaventato. È una somma enorme. Non crede che vi sia un errore? Nessun errore. Forse ha letto male la cifra, si tratterà di 2.000 sterline. È scritto in lettere, non in cifre, 20.000. Di nuovo mi sentii come un individuo di modeste esigenze gastronomiche che si trova da solo di fronte a una tavola ricoperta di vivande per 100 persone. Il signor Rivers si alzò e prese il mantello. «Se non fosse così cattivo tempo», disse, «le manderei Anna a tenerle compagnia. Mi sembra così desolata che mi dispiace lasciarla sola, ma Anna, poveretta, non può certo affrontare la tormenta come ho fatto io. Le sue gambe non sono lunghe come le mie, così devo abbandonarla alle sue preoccupazioni. Buonanotte!» Egli stava per uscire quando un pensiero improvviso mi assalì. «Aspetti un minuto!» gridai. «Ebbene? Vorrei sapere perché il signor Briggs ha scritto a lei per avere mie informazioni. Come lo conosce? Come ha potuto supporre che in un paese così fuori mano lei avrebbe potuto aiutarlo nelle sue ricerche?» «Oh, io sono un pastore, e in simili occorrenze tutti si rivolgono ai pastori.» «No, questa spiegazione non mi soddisfa», esclamai, «perché nella sua risposta frettolosa ed evasiva vi era qualche cosa che invece di placare la mia curiosità l'aveva maggiormente stimolata». «È un fatto piuttosto strano», aggiunsi, «vorrei sapere qualche cosa di più». «Un'altra volta». «No, stasera, stasera», e poiché stava voltandosi per uscire mi frapposi tra la porta e lui. Egli mi guardò piuttosto imbarazzato. «Non se ne andrà finché non mi avrà raccontato ogni cosa. Non vorrei farlo ora, deve farlo, deve». «Preferirei che fossero Diana o Mary a informarla. È naturale che tali obiezioni non facessero che eccitare il mio desiderio di sapere. Dovevo essere informata senza indugio e glielo dissi. Le ho già detto, continuò egli, che sono un uomo duro e difficile da persuadere. Ed io sono una donna dura, da cui è impossibile liberarsi. Ed io sono freddo e non mi lascio vincere da nessuna esaltazione. Ebbene, io sono ardente, e il fuoco scioglie il ghiaccio, la fiamma del focolare ha fatto sparire la neve dal suo mantello, l'acqua scorre ora sul pavimento, trasformandolo in un vero pantano. Signor Rivers, se vuole essere perdonato del delitto e della vergogna di aver insudiciato la mia cucina, mi dica quello che desidero sapere. Ebbene, mi arrendo, rispose, se non alla sua irruenza, alla sua perseveranza, così come una pietra intaccata dal continuo sgocciolio dell'acqua. Del resto un giorno o l'altro dovrebbe pur saperlo, tanto vale che lo sappia ora. Lei si chiama Jane Eyre? Sì, l'avevamo già detto. Forse non sa che io porto il suo stesso nome, che fui battezzato St. John Eyre Rivers. No, non lo sapevo. Ricordo di aver notato la lettera E nelle iniziali scritte sui libri che mi ha prestato, ma non chiesi mai a quale nome si riferisse. Ma allora certo... Mi interruppi, non potevo credere e tantomeno esprimere il pensiero che sorgeva in me e che prendeva corpo a poco fino a divenire una solida, effettiva probabilità. Le circostanze si chiarivano, si disponevano in ordine logico. La catena che fino a un attimo prima era un ammasso informe di pezzi staccati si stava componendo, ogni anello era perfetto, la connessione completa. Sentii per istinto come stavano le cose prima ancora che St. John avesse detto una parola, ma non posso aspettarmi che il lettore abbia la mia stessa intuizione e quindi è necessario che gli ripeta la spiegazione del pastore. Mia madre si chiamava Eyre e aveva due fratelli. Uno, un pastore, aveva sposato la signorina Jane Reed di Gateshead. L'altro, John Eyre, era commerciante a Funchal nell'isola di Madeira. Il signor Briggs, che era il legale del signor Eyre, ci scrisse nell'agosto scorso per informarci della morte di un nostro zio e per dirci che aveva lasciato tutto il suo patrimonio alla figlia orfana del fratello pastore, dimenticandosi di noi a causa di un dissidio non mai sanato tra lui e mio padre. Scrisse ancora poche settimane dopo per informarci che l'erede non si poteva trovare e per chiedere se sapevamo nulla di lei. Un nome scritto per caso su un pezzo di carta mi ha permesso di scoprire la verità. Il resto lo sa. Fece per andarsene, ma di nuovo mi appoggiai alla porta con la schiena. «Mi lasci parlare», dissi. «Mi lasci prender fiato un momento e riflettere». Egli stava in piedi dinanzi a me col cappello in mano, calmo nell'aspetto. Ripresi. «Sua madre era dunque sorella di mio padre?» «Sì, mia zia allora», egli annuì. «Mio zio John era anche suo zio. Lei, Diana e Mary, siete figli di sua sorella ed io sono figlia di suo fratello?» «Senza dubbio». «Voi tre siete allora miei cugini? Metà del vostro sangue sgorga dalla stessa sorgente?» «Sì, siamo cugini». Lo guardavo e mi pareva di aver trovato un fratello di cui potevo essere orgogliosa e che potevo amare. Due sorelle che con le loro qualità, sebbene allora le credessi strane, mi avevano ispirato un affetto sincero e una profonda ammirazione. Quelle due ragazze che avevo visto la prima volta attraverso la stretta inferriata della cucina di Moorhouse, provando un sentimento misto di interesse e di amarezza. Erano miei parenti, e il giovane alto e nobile che mi aveva raccolta morente sulla soglia di casa era unito a me da vincoli di sangue. Che meravigliosa scoperta per una povera ragazza sola! Questa era una ricchezza, la ricchezza del cuore, una miniera di affetti puri, spirituali. La gioia che provavo non somigliava all'altra risentita nell'apprendere che ero ricca. Era una felicità viva, inebriante, scevra dell'oppressione dell'oro. Mi venne fatto di battere le mani per la gioia. Avevo il polso agitato e sentivo il sangue scorrermi rapidamente nelle vene. «Oh, sono felice, felice!» esclamai. St. John sorrise. «Non avevo ragione dicendo che trascurava l'essenziale per le inezie? È rimasta seria quando le ho detto che aveva ereditato una fortuna ed ora per una cosa senza importanza è tutta eccitata. Che cosa intende dire? Forse sarà di poca importanza per lei che ha due sorelle e non ha bisogno di una cugina, ma io non avevo nessuno, ed ora tre parenti o due, se lei non vuole essere messo in conto, sono venuti a riempire il mio mondo, sono felice, le dico, molto felice. Camminavo su e giù per la stanza, fermandomi ogni tanto semi-soffocata dai pensieri che mi sorgevano nella mente, senza che avessi il tempo di comprenderli e di coordinarli. Pensavo a tutto ciò che poteva accadere, che sarebbe accaduto tra breve. Guardavo le pareti bianche che mi sembravano un cielo tempestato di stelle e ognuna di quelle stelle mi guidava a una meta deliziosa. Finalmente avrei potuto fare del bene a coloro che mi avevano salvato la vita e che fino allora avevo amato di un inutile amore. Erano oppressi da un giogo, li avrei liberati. Erano separati, potevo riunirli, potevo dar loro la ricchezza e l'indipendenza. Non eravamo forse quattro? 20.000 sterline divise in parti uguali davano 5.000 sterline a ciascuno di noi. Era una cifra sufficiente perché giustizia fosse fatta e assicurata la felicità di tutti. La ricchezza non mi opprimeva più. Non era più un legato di monete d'oro, bensì un'eredità di vita, di speranza, di felicità. Non so che aspetto avessi. Mentre pensavo a tutte queste cose, ma mi accorsi che il signor Rivers aveva avvicinato una sedia e cercava dolcemente di farmi sedere. Mi consigliava di stare calma ed io lo assicuravo di non essere affatto eccitata e respinsi la mano che voleva costringermi al riposo per camminare ancora. Scriva a Diana e Mary domani, dissi, e le preghi di venir subito. Diana diceva che lei e sua sorella si sarebbero considerate ricche con 1.000 sterline ciascuna, così mi immagino che con 5.000 saranno contente. Dove posso trovare un bicchiere d'acqua? Mi chiese St. John. Bisogna che si calmi, che domini i suoi sentimenti. È inutile, mi dica che effetto produrrà su di lei questo denaro. Servirà a trattenerlo in Inghilterra, a convincerlo a sposare la signorina Oliver e a farlo vivere come un comune mortale? Lei vaneggia, la sua mente è confusa. Sono stato troppo precipitoso nel comunicarle la notizia, l'ha eccitata al di là delle sue forze. Signor Rivers, mi fa veramente perdere la pazienza. Sono più che calma, è lei che fraintende, o meglio che finge di fraintendere. Forse se lei si spiegasse meglio la capirei. Spiegare? Che cosa devo spiegare? È forse difficile capire che dividendo in quattro parti la somma di 20.000 sterline tra il nipote e le tre nipoti di nostro zio ne toccano 5.000 ciascuno? Questo è quanto le domando di scrivere alle sue sorelle per informarle dell'eredità che hanno avuto. Che ha avuto lei, vuol dire. Ho già esposto il mio punto di vista al riguardo, non posso accettarne un altro. Non sono brutalmente egoista, ciecamente ingiusta, malvagia o ingrata. Del resto, voglio avere una casa e dei parenti. Moorhouse mi piace e vi abiterò. Voglio bene a Diana e a Mary e voglio stare vicina a loro per tutta la vita. Mi farà piacere di possedere 5.000 sterline, ma sarebbe un tormento e un'oppressione averne 20.000. Inoltre, esse mi spetterebbero per legge, ma non per giustizia. Lascio a voi quello che è del tutto superfluo per me. Non vi deve essere opposizione né discussione su questo argomento. Mettiamoci d'accordo e prendiamo subito una decisione. Questo è agire di primo impulso. Dovrebbe prendersi qualche giorno di tempo per riflettere prima che le sue parole possano avere valore. Oh, se lei intende mettere in dubbio la mia sincerità, sono tranquilla. Non vede che è una questione di giustizia? Devo vedervi una certa giustizia, ma è contrario ad ogni consuetudine. In fondo l'intera fortuna è un suo diritto. Mio zio se l'è guadagnata con la sua fatica ed era libero di lasciarla a chi pareva. E gliel'ha lasciata a lei. Dopotutto, la giustizia le permette di tenerla. Potrebbe con la coscienza del tutto tranquilla considerarla una cosa sua. Per me è più una questione di sentimento che di coscienza. Non posso oppormi ai miei sentimenti. Ho avuto tanto di frequente l'opportunità di farlo. Se anche lei continuasse a discutere, ad annoiarmi per un anno intero, non mi farebbe rinunciare all'infinito piacere che per un attimo ho intravisto. Il piacere di pagare in parte il mio debito di riconoscenze, di farmi degli amici per la vita. Lei parla così ora perché non sa cosa sia possedere una ricchezza e goderne a piacere. Lei non si rende conto di quello che 20.000 sterline possono offrirle, del posto che possono darle nella società, delle prospettive che possono aprirsi dinanzi a lei. Non... E lei? Interruppi? Non puoi immaginare con quale ardore io aspiri a un affetto di un fratello e di una sorella. Non ho mai avuto una casa, né fratelli, né sorelle. Ora posso e voglio averne. Non si opporrà, spero, ad ammettermi in mezzo a voi. Jane, io sarò tuo fratello, le mie sorelle saranno tue sorelle, senza pretendere in cambio il sacrificio dei tuoi diritti. Fratello? Sì, alla distanza di miglia. Sorelle, sì, in servitù, presso estranei, io ricca di una ricchezza che non ho mai guadagnato e che non merito. E tu, povero? Che bella uguaglianza e fratellanza, che stretta unione, che intimo affetto. Ma Jane, la tua aspirazione ad avere una famiglia e una felicità domestica può essere altrimenti appagata, puoi sposarti. Ecco un'altra assurdità. Sposarmi, non voglio sposarmi, non mi sposerò mai. Non dirlo, simili affermazioni avventate sono la prova dell'esaltazione che ti sconvolge. Non sono affermazioni avventate, conosco i miei sentimenti e so quanto il mio essere si ribelli al solo pensiero del matrimonio. Nessuno mi sposerebbe per amore e non vorrei essere avvicinata per le mie ricchezze. Inoltre non vorrei avere vicino a me un estraneo al quale non sarei unita da alcun vincolo di simpatia, un essere diverso da me. Voglio avere intorno dei consanguinei, della gente che nutra i miei stessi sentimenti. Dimmi di nuovo che sarai mio fratello. Quando hai pronunciato poco fa tali parole, mi sono sentita soddisfatta e felice. Ripetile, se puoi, ripetile sinceramente. Credo di poterle ripetere. So di avere sempre amato le mie sorelle e so che il mio affetto per loro si basa sulla stima, sul rispetto del loro valore, sull'ammirazione per il loro talento. Anche tu sei di solidi principi e di mente aperta. Il tuo gusto e le tue abitudini mi ricordano quelle di Diana e di Mary. La tua presenza mi fa sempre piacere. La tua conversazione mi ha sempre dato un senso di sollievo. Sento che potrò con facilità trovarti un posto nel mio cuore e considerarti come la mia sorella minore. Grazie. Per questa sera mi basta. Ora è meglio che tu te ne vada. Se rimanessi ancora, potresti forse irritarmi nuovamente con i tuoi scrupoli e la tua diffidenza. E la scuola, signorina Eyre? Dovremmo chiuderla, suppongo? No, io terrò il mio posto di maestra, fino a quando non avrai trovato chi possa sostituirmi. Egli sorrise contento, mi strinse la mano e se ne andò. Non posso narrare con molti particolari le lotte che dovetti sostenere e gli argomenti di cui dovetti servirmi affinché l'eredità fosse divisa secondo i miei desideri. Il mio compito non era facile, ero assolutamente decisa. Come i miei stessi cugini si resero conto, vedendomi irremovibile sulla divisione del patrimonio, a far comprendere loro quanto fossero giuste le mie intenzioni, ed essi, pur sapendo che al mio posto avrebbero agito al mio stesso modo, consentirono a porre la decisione in mano a due arbitri. I giudici scelti furono il signor Oliver e un abile avvocato. Tutti e due mi dettero ragione. Avevo finalmente vinto. Fu redatto l'atto di trasferimento di proprietà. St. John, Diana, Mary ed io venimmo in possesso, ciascuno della propria parte. Capitolo 24. Era quasi Natale quando ogni cosa fu sistemata. Si avvicinava l'inizio delle vacanze. Chiusi la scuola di Morton, avendo cura che la conclusione di questa parte della mia esistenza non fosse sterile. La buona fortuna schiude la mano come il cuore in modo meraviglioso e il dare, dopo aver largamente ricevuto, è aprire una porta ad un insolito incalzare di sensazioni. Avevo più volte constatato con piacere che molte delle mie rozze allieve mi volevano bene. Quando partii, ne ebbi la conferma. Esse manifestavano il loro affetto con semplicità e intensità. Profonda fu la mia soddisfazione nel constatare che occupavo veramente un posto nei loro cuori. Promisi loro che non avrei mai lasciato passare una settimana in avvenire senza rendere loro visita e senza offrire loro un'ora di insegnamento. Il signor Rivers arrivò mentre stavo con la chiave in mano dopo aver visto le 60 allieve sfilare davanti a me e aver chiuso la porta. Rimanevano presso di me alcune delle migliori e scambiavo alcune parole con esse. Erano veramente le fanciulle più educate, rispettose, modeste e coltivate che si potessero trovare tra la gente di campagna inglese. E ciò è far loro un grande elogio, poiché la classe dei contadini in Inghilterra è certamente più evoluta, più educata, più rispettosa di se stessa di quella di qualsiasi parte d'Europa. Da allora ho conosciuto molti altri contadini, e i migliori di essi, paragonati alle ragazze di Morton, mi sono sembrati ignoranti, rozzi e primitivi. «Non ti pare di aver avuto un premio sufficiente per una sola stagione di fatica?» chiese il signor Rivers quando se ne furono andate. «Non sei felice di aver compiuto del bene?» «Senza dubbio. E tu hai dedicato a quest'opera di bene soltanto pochi mesi. Non credi che una vita dedicata interamente alla rigenerazione dell'umanità sarebbe bene spesa?» «Sì», risposi, «ma non potrei continuare sempre così. Desidero godere delle mie facoltà, così come amo sviluppare quelle degli altri». Ora voglio goderne appieno, non richiamare il mio corpo e la mia mente verso la scuola. Io sono fuori ormai e mi appresto a godermi una lunga vacanza. Egli si fece serio. Quale ardore improvviso ti ha assalito? Cosa intendi fare? Essere attiva, più attiva che posso. Prima di tutto chiedo a te di mettere in libertà Anna e di assumere qualcun altro che si curi di te. La vuoi presso di te? Sì. Essa deve venire con me a Moor House. Diana e Mary saranno a casa tra una settimana e desidero che tutto sia in ordine per il loro arrivo. Capisco. Credevo che tu volessi partire per qualche gita. Meglio così. Anna verrà con me. Dille allora di tenersi pronta per domani. Questa è la chiave della scuola. Domattina ti darò anche la chiave di casa. Egli la prese. Mi sembri molto allegra. Non riesco a capire la tua gaiezza, poiché non so quale altra occupazione pensi di sostituire a quella che hai lasciato. Quali scopi, quali propositi, quali ambizioni tieni in serbo per il tuo avvenire? La mia prima ambizione sarà quella di ripulire. Capisci tutta la forza di questa parola? Ripulire Murhaus dalle soffitte alla cantina. La seconda sarà di lucidare tutto con olio e cera fino a che tutto riprenda a brillare. La terza metterà a posto ogni sedia, ogni tavolo, i letti, i tappeti con precisione matematica. Poi finirò col rovinarti, col consumare la maggior quantità di carbone e di torba possibile per accendere un bel fuoco in ogni stanza. Finalmente i 2 giorni che precederanno l'arrivo delle tue sorelle saranno impiegati da Anne e da me a battere le chiare d'uova, impastar farina, a preparare torte natalizie e a celebrare tutti i riti culinari, assai difficili a spiegare a parole a un non iniziato come te. Il mio proposito è, in breve, di avere tutto in perfetto ordine per Diana e Mary prima del prossimo giovedì, e la mia ambizione è di preparare loro un'accoglienza ideale. St. John sorrise a fior di labbra. Non sembrava però soddisfatto. Tutto ciò va molto bene per il momento, egli disse, ma seriamente io credo che quando il primo entusiasmo sarà svanito guarderai un po' più in alto che non alle gioie domestiche. Oh, non vi è nulla di meglio al mondo, interruppi io. No, Jane, no, questo mondo non è un luogo di delizie, non cercare un tal genere di vita e neppure un luogo di riposo, non essere indolente. Oh, io mi riprometto al contrario di essere molto occupata. Jane, ti perdono per il momento e ti concedo 2 mesi per godere appieno della tua nuova posizione e della gioia di aver trovato una famiglia, ma dopo di allora io spero che comincerai a guardare un po' più lontano di Moorhouse e di Morton, della compagnia delle sorelle, della calma egoistica e del benessere materiale che procura il mondo civile. Spero che la tua vitalità comincerà di nuovo a farsi sentire. Lo guardai sorpresa. St. John, dissi. Mi pare che tu sia in errore parlandomi in questo modo. Sono disposta ad essere felice come una regina e tu cerchi di riportarmi ad una vita di ansie e di preoccupazioni. A quale scopo? Allo scopo di trar profitto dal talento che Dio ti ha affidato perché tu ne facessi uso e del quale certamente un giorno ti chiederà conto. Jane, io ti seguirò da vicino, ti avverto fin d'ora. Cercherò di attenuare lo sproporzionato ardore che ti spinge a godere dei comuni piaceri casalinghi. Non vincolarti così tenacemente ai legami della carne, bensì conserva il tuo ardore e la tua costanza per una causa più degna. Non sprecare queste tue qualità per oggetti transitori di poco conto. Mi ascolti, Jane? Sì, come se tu parlassi greco. Sento di avere le mie ragioni per essere felice e voglio esserlo. Addio. Ero felice, infatti, a Moorhouse ed ebbi molto da fare insieme ad Anna. Essa era molto divertita nel vedere come io fossi allegra nel mezzo di una casa tutta sottosopra e come mi divertissi a spazzolare, a spolverare, a lucidare e cucinare. Dopo 1 o 2 giorni di confusione era veramente piacevole riportare l'ordine in mezzo al caos che noi stessi avevamo provocato. Mi ero recata per acquistare alcuni mobili. Le mie cugine mi avevano dato carta bianca per tutti i cambiamenti che avessi voluto fare ed era stata stabilita una somma per gli acquisti. La stanza di soggiorno e le camere da letto furono lasciate com'erano. Sapevo che Diana e Mary sarebbero state più contente di ritrovare i tavoli, le sedie, i letti di un tempo, piuttosto che vedersi intorno altri mobili, anche se più eleganti. Pure qualche cambiamento si rendeva necessario per assicurare al loro ritorno quel tanto di sorpresa che mi proponevo di suscitare. Comprai nuovi tappeti scuri, nuove tende, alcuni bronzi antichi, alcune porcellane, nuove coperte, specchi, servizi da toilette. Tutto ciò dava una sensazione di rinnovamento, senza però conferire all'arredamento un aspetto sfacciato. Ammobiliai completamente un salottino e una camera da letto con mobili in mogano e tappezzerie rosso cupo. Avevo steso le passatoie nei corridoi e tappeti sulle scale, e quando il lavoro fu terminato, Moorhouse era un perfetto modello di comodità senza sfarzo, mentre all'esterno appariva in quella stagione come una casa fredda e abbandonata. E finalmente giunse il fatale giovedì. I cugini erano attesi per l'imbrunire. Avevo fatto accendere tutti i camini della casa. La cucina era in perfetto ordine. Anna ed io ci eravamo vestite con molta cura e tutto era pronto per accoglierli. St. John arrivò per primo. L'avevo supplicato di non venire fino a che tutto non fosse in ordine, ben sapendo che il trambusto di una casa a soqquadro gli riusciva oltremodo sgradevole. Mi trovò in cucina, attenta a sorvegliare la cottura di alcuni dolci che avevo preparato per il tè. Avvicinandosi al focolare mi chiese se fossi finalmente soddisfatta di far la serva. Risposi invitandolo ad accompagnarmi a fare il giro della casa. Egli gettava uno sguardo nell'interno delle stanze e dopo che l'ebbe visitata in lungo e in largo mi disse che dovevo aver faticato assai per aver operato simili cambiamenti in così breve tempo. Tuttavia non espresse la minima soddisfazione nel vedere la casa così ben ordinata. Il suo silenzio mi agghiacciò. Pensavo che i cambiamenti avessero disturbato certi legami ideali col passato che erano in lui. Gli chiesi se fosse questa la ragione della sua freddezza e non v'è dubbio che lo feci con tono umile e sommesso. Affatto, egli aveva invece notato come io avessi rispettato scrupolosamente tutti questi legami e pensava anzi che io mi fossi preoccupata di ciò anche più del necessario. Quanti minuti, per esempio, avevo dedicato a studiare la sistemazione di ogni stanza? A proposito, potevo dirgli dov'era il tale libro? Gli mostrai il volume sullo scaffale e glielo prese e raggiungendo, come il solito, il vano della finestra, cominciò a leggere. Questo devo dirti, lettrice, che non mi piacque affatto. St. John era buono, ma cominciavo a credere che gli avesse detto la verità su se stesso quando disse di essere duro e freddo. Le cose piacevoli della vita terrena non esercitavano su di lui alcuna attrazione e non subiva il fascino delle gioie tranquille. Veramente gli viveva soltanto aspirando a nobili e grandiose imprese e non voleva riconoscere riposo, né ammetteva che gli altri riposassero intorno a lui. Guardando la sua fronte spaziosa, pallida come una bianca pietra, i suoi lineamenti fini assorti nello studio, capii subito che egli sarebbe stato difficilmente un buon marito e voler essere sua moglie sarebbe stato un tentativo rischioso. Compresi, per un improvviso intuito, la natura del suo amore per la signorina Oliver. Fui d'accordo con lui, che non era altro che amore dei sensi, e compresi pure come egli allontanasse da sé la torbida influenza che esso esercitava sul suo spirito. Capii come egli volesse reprimerlo e distruggerlo e come potesse essere convinto che un tale amore non avrebbe mai dato la felicità a nessuno dei due. Mi resi conto che egli era della stessa natura degli eroi, cristiani e pagani, dei loro legislatori, dei loro statisti, dei loro conquistatori, un saldo baluardo a difesa di superiori interessi, ma una colonna troppo fredda e ingombrante per essere posta a fianco del focolare, malinconica e fuori posto. Questo salotto non è il suo mondo, riflettei. La vetta dell'Himalaya, l'oasi di Kufra, perfino le paludi pestifere della costa di Guinea gli si addirrebbero meglio. Fa bene a fuggire la vita domestica, essa non è il suo elemento. Qui le sue facoltà si addormenterebbero e non avrebbe alcun modo di svilupparsi o di brillare. Egli è al suo posto dove c'è lotta e pericolo, dove si richiede coraggio, forza e energia, in luoghi dove egli possa parlare e agire come capo e come dominatore. Un fanciullo potrebbe avere ragione di lui in questi luoghi. Bene ha fatto a scegliere la carriera del missionario, ora lo comprendo. «Arrivano, arrivano!» gridò Anna, spalancando la porta del salotto. Nello stesso momento il vecchio Carlo si mise ad abbaiare festosamente. Corsi fuori, era buio e sentì avvicinarsi un rumore di ruote. Anna accese la lanterna. La carrozza si fermò presso il cancello. Il cocchiere aprì la porta e le note figure delle mie cugine apparvero una dopo l'altra. Un istante dopo il mio viso spariva sotto i loro cappelli e sentì il contatto prima della guancia soffice di Mary e poi dei riccioli morbidi di Diana. Esse baciarono prima me e poi Anna, poi abbracciarono Carlo che sembrava impazzire dalla gioia. Mi chiesero se tutto andava bene ed entrarono in casa. Erano stanche per il viaggio da Whitecross, indolenzite per le scosse della carrozza e infredolite per l'aria gelida della notte, ma si riebbero al piacevole tepore del focolare. Mentre il cocchiere e Anna guidavano la carrozza alla rimessa, chiesero di St. John. In quel momento egli stava entrando. Gli gettarono le braccia al collo e gli diede loro un bacio, pronunciò in tono sommesso alcune parole di benvenuto, si lasciò fare qualche domanda e poi, pregandole di raggiungerlo presto, tornò in salotto come a un rifugio. Avevo acceso le candele per salire al piano di sopra, ma Diana doveva impartire alcuni ordini al cocchiere. Fatto questo, mi seguirono. Rimasero incantate del rinnovamento delle loro camere, delle nuove tappezzerie, dei tappeti, dei vasi cinesi, dalle tinte sgargianti ed espressero la loro immensa gratitudine. Ebbi la gioia di sentire che quanto avevo fatto rispondeva esattamente ai loro desideri. La mia opera aveva aggiunto un vivo incanto al loro felice ritorno a casa. Fu una bella serata. Le mie cugine allegrissime erano così espansive e discorsive che il loro entusiasmo fece dimenticare il silenzio di St. John. Egli era sinceramente felice di rivedere le sue sorelle, ma non poteva gradire i loro slanci di gioia. Il loro ritorno gli faceva piacere, ma tutto quanto si accompagnava ad esso, l'allegra confusione, la garrula accoglienza, lo irritava. Mi accorsi che egli desiderava che venisse presto il giorno seguente, che sarebbe stato certamente più calmo. Nel mezzo dell'allegra serata, un'ora dopo il tè, udimmo bussare alla porta. Anna entrò annunciando che un povero diavolo era venuto a quell'ora insolita a pregare che il signor Rivers si recasse presso sua madre moribonda. «Dove abita?» chiese St. John. «Sopra White Cross, quasi a 4 miglia da qui. È una strada fangosa e acquitrinosa. Sarebbe meglio che non andasse, signore. Non c'è strada peggiore da percorrere di notte, non vi è neppure un sentiero in maremma. E poi è una notte gelida, il vento è tagliente, sarebbe meglio che gli dicesse che vi andrà domani mattina». Ma egli era già nel corridoio, col pastrano addosso e senza una parola se ne andò. Erano le 9. Non tornò che a mezzanotte, stanco e affamato, appariva tuttavia più felice di quando se n'era andato. Aveva compiuto un dovere, aveva fatto uno sforzo, aveva esercitato la propria volontà e si sentiva perciò più soddisfatto di se stesso. Credo che per tutta la settimana seguente, la settimana di Natale, la sua pazienza fu messa a dura prova. Trascorremmo quei giorni senza nessuna occupazione particolare, abbandonandoci ad un familiare far niente. L'aria della brughiera, la casa piacevole, i primi giorni di prosperità ebbero un'influenza inebriante sullo spirito di Diana e di Mary. Erano allegre dal mattino alla sera, parlavano continuamente e i loro discorsi originali, spiritosi, mi piacevano tanto che preferivo stare ad ascoltarle piuttosto che fare qualsiasi altra cosa. St. John non cercava di reprimere la nostra vivacità, ma ci evitava e stava poco in casa. Preferiva andare a visitare i poveri e gli ammalati nei paesi circostanti. Una mattina alla colazione Diana, dopo essere rimasta pensierosa per qualche minuto, gli chiese se i suoi progetti fossero mutati. «Immutati e immutabili», fu la risposta. Ed egli ci informò che la data della sua partenza dall'Inghilterra era definitivamente fissata per l'anno che stava per iniziare. «E Rosamond Oliver?» domandò Mary. Queste parole sembravano esserle sfuggite dalle labbra involontariamente. Non appena le ebbe pronunciate fece un gesto come per richiamarle. St. John aveva in mano un libro. Era una sua abitudine non molto educata quella di leggere a tavola. Lo richiuse e alzò lo sguardo. «Rosamond Oliver», egli disse, «sta per sposare il signor Granby, uno dei più stimabili signori di nipote ed erede di Sir Frederick Granby. L'ho saputo da suo padre, ieri». Le due sorelle si guardarono l'un l'altra e poi rivolsero lo sguardo a me. Egli era impassibile e freddo come un cristallo. «La cosa è stata decisa in fretta», disse Diana. «Non debbono conoscersi da molto tempo». «Da 2 mesi? Si incontrarono in ottobre al ballo», disse. «Ma quando non vi è nessun ostacolo ad una unione, i ritardi sono inutili». «Si sposeranno presto al castello», disse, «che Sir Frederick regalerà loro non appena sarà pronto». Quando mi trovai sola con St. John fui tentata di indagare se quell'avvenimento lo affliggesse, ma sembrava che egli avesse così poco bisogno di simpatia che invece di avvicinarmi a lui ebbi quasi vergogna di aver avuto questa idea. Inoltre mi riusciva difficile parlargli, la sua riservatezza mi agghiacciava e la mia franchezza abituale rimaneva come paralizzata di fronte a lui. Egli non aveva mantenuto la sua promessa di trattarmi come le sue sorelle. Continuava a marcare alcune lievi differenze tra di noi che non facilitavano certo i rapporti più cordiali. Ora che ero stata riconosciuta come sua parente e che vivevo sotto il suo stesso tetto, sentivo una distanza molto maggiore di quando ero maestra al villaggio. Quando ricordavo come un tempo fossi stata ammessa alle sue più intime confidenze, non riuscivo a capire la sua attuale freddezza. Così stavano le cose tra noi e non fui quindi poco meravigliata quando, alzando il capo dalla tavola sulla quale stava chino, mi disse: «Vedi, Jane, ho combattuto e ho vinto». Rimasi perplessa, sentendo che si indirizzava a me e non risposi immediatamente, ma soltanto dopo un attimo di esitazione. «Ma sei sicuro di non essere nella posizione di quei conquistatori ai quali i trionfi sono costati troppo cari? Non starai forse preparando la tua rovina?» «Oh, non credo. E anche se fosse, non me ne importerebbe nulla. Non dovrò più combattere per la stessa causa. L'esito del conflitto è decisivo. La mia strada è ormai chiara, ringraziando Dio per questo». Così dicendo, egli ritornò alle sue carte e al suo silenzio. Diana, Mary ed io ritornammo ben presto ad una vita più tranquilla e riprendemmo le nostre abitudini e i nostri studi. St. John stava in casa maggiormente, sedeva con noi e stavamo insieme per ore intere. Mentre Mary disegnava, Diana seguiva un corso di letture enciclopediche che aveva da poco iniziato, con mia grande ammirazione, ed io proseguivo lo studio del tedesco. St. John studiava una lingua orientale che riteneva indispensabile conoscere per l'attuazione dei suoi progetti. Rimaneva lungamente assorto nel suo cantuccio e quasi assorbito, ma ogni tanto i suoi occhi azzurri si sollevavano dal libro e fissavano noi, i suoi compagni di studio, con una curiosità intensa di osservazione. Se si sentiva scoperto, li riabbassava subito. Tuttavia, ritornava continuamente con lo sguardo al nostro tavolo. Mi domandavo il perché di quell'esame e non comprendevo la soddisfazione che gli dimostrava puntualmente in una occasione che io consideravo di ben poco conto, la mia visita settimanale alla scuola di Morton. E rimanevo ancora più stupita quando, a causa del vento, della neve o della pioggia, le sue sorelle mi consigliavano di rimandare la visita ed egli invariabilmente si prendeva gioco della loro premura e mi incoraggiava a compiere il mio dovere senza preoccuparmi delle intemperie. Jane non è poi così debole come credete, diceva, e può sopportare il vento della montagna, la pioggia e la neve come chiunque di noi. La sua costituzione è sana ed elastica e può resistere alle variazioni del clima meglio di altri individui più robusti. Quando tornavo, spesso molto stanca, tutta bagnata e tremante dal freddo, non osavo lamentarmi perché sapevo che gli avrebbe dato fastidio. La forza d'animo suscitava sempre la sua ammirazione, il contrario gli dispiaceva. Un giorno, tuttavia, fui obbligata a restare a casa a causa di un raffreddore. Le sue sorelle si erano recate a Morton al posto mio. Io ero occupata a leggere Schiller ed egli stava decifrando la sua lingua orientale. Mentre traducevo per esercizio, incontrai il suo sguardo e mi trovai sotto l'influenza dei suoi penetranti occhi azzurri. Non saprei dire da quanto tempo egli mi fissasse, era uno sguardo così inquisitore e freddo che ebbi un attimo di superstizioso timore, come se in faccia a me stesse seduto un essere soprannaturale. Cosa stai facendo, Jane? Mi domandò. Sto imparando il tedesco. Vorrei che tu lasciassi il tedesco per l'indostano. Non stai parlando seriamente, vero? Tanto seriamente che desidero tu lo faccia e ti dirò perché. Mi spiegò allora che egli stesso stava studiando l'indostano ed era una lingua così difficile che a mano che procedeva nello studio dimenticava quanto aveva precedentemente appreso. Gli sarebbe quindi stato di notevole aiuto avere un'allieva alla quale insegnare i primi elementi al fine di fissarseli lui stesso nella mente. La sua scelta era stata incerta per qualche tempo tra me e le sue sorelle, ma poi mi aveva preferito a loro, avendo notato in me maggiore perseveranza nello studio. Gli avrei fatto questo favore? Non sarebbe stato un sacrificio molto lungo, poiché contava di partire fra 3 mesi. St. John non era uomo al quale si potesse facilmente opporsi. Avevo la sensazione che ogni impressione che ricevesse, sia spiacevole che piacevole, si incidesse in lui profondamente e in modo duraturo. Acconsentii. Quando Diana e Mary ritornarono a casa, la prima trovò la sua allieva trasferita a suo fratello e non poté fare a meno di ridere. Tutte e due si trovarono d'accordo sul fatto che St. John non sarebbe mai riuscito a persuaderle ad accettare una simile proposta. Egli rispose calmo: Lo so. Trovai in lui un maestro paziente, indulgente, ma anche esigente. Si aspettava molto da me e quando non deludevo la sua aspettativa, a modo suo mi dimostrava la sua approvazione. A poco egli acquistò su di me una particolare influenza che mi tolse ogni libertà di mente. Le sue lodi mi riuscivano più imbarazzanti della sua indifferenza. Non mi riusciva più di parlare e ridere liberamente in sua presenza. Un fastidioso importuno istinto mi avvertiva che la vivacità, almeno in me, gli era sgradevole. Sapevo che egli amava soltanto le occupazioni serie e ogni sforzo di dedicarmi ad altro in sua presenza mi riusciva del tutto vano. Ero caduta sotto il dominio della sua volontà. Quando diceva vai, io andavo. Quando diceva vieni, io venivo. Fai, io facevo. Non amavo questa specie di schiavitù, molte volte rimpiangevo i tempi in cui non si occupava di me. Una sera, all'ora di andare a letto, le sue sorelle ed io eravamo attorno a lui per dargli la buonanotte. Egli diede loro un bacio, come era sua abitudine, e come era ugualmente sua abitudine, mi porse la mano. Diana, che era particolarmente di buon umore quella sera, ella non si lasciava dominare dal fratello, in altre parole, era della stessa forza, esclamò: St. John, sei solito chiamare Jane la tua terza sorella, ma poi non ti comporti verso di lei come se realmente lo fosse. Dovresti baciare anche lei. E così dicendo mi spinse verso di lui. Rimasi confusa e impacciata e pensai che Diana fosse stata troppo ardita. St. John abbassò la testa e il suo bel volto greco si trovò all'altezza del mio. I suoi occhi penetranti mi interrogarono e mi baciò. Non esistono baci di marmo o di ghiaccio, altrimenti avrei classificato tra questi il bacio che mio cugino Pastore mi diede quella sera. Vi sono invece baci sperimentali e il suo era appunto un bacio da esperimento. Una volta dato, egli mi osservò per studiare l'effetto. Non era certo un effetto travolgente e sono sicura di non aver arrossito. Forse ero divenuta un po' pallida perché mi era sembrato che quel bacio fosse un suggello apposto alle mie catene. Da allora non dimenticò mai quella specie di rito e la gravità e la solennità con cui lo compiva riuscivano a infondergli una certa attrattiva. Quanto a me, cercavo sempre più di piacergli, ma di giorno in giorno mi accorgevo che per riuscirvi avrei dovuto modificare la mia stessa natura, incatenare le mie facoltà, alterare i miei gusti, forzarmi ad accettare un indirizzo diverso da quello che mi era naturale. Egli desiderava portarmi ad altezze che non avrei mai potuto conseguire. Voleva vedermi sottomessa allo stendardo che egli spiegava. La cosa era impossibile, così come sarebbe stato impossibile modellare i miei lineamenti irregolari sui suoi, che erano di classica perfezione, o dare al colore verde dei miei occhi la tinta azzurra e lo sguardo brillante dei suoi. Non era soltanto il suo ascendente che mi teneva soggiogata. Negli ultimi tempi non mi era riuscito certo difficile apparire malinconica. Un dolore feriva il mio cuore e prosciugava in me la fonte della felicità, il dolore dell'attesa. Forse penserai, lettrice, che lo avessi dimenticato il signor Rochester attraverso tutti questi cambiamenti di luoghi e di fortuna. Non un solo istante. Il pensiero di lui era costantemente in me, poiché non era una nebbia che il sole dissolve o un'orma sulla sabbia che l'acqua cancella. Il suo nome era scolpito nel marmo per sempre e il desiderio di sapere cosa era avvenuto di lui mi perseguitava ovunque. Quando ero a Morton mi chiudevo nella mia casetta ogni sera a pensare a lui ed anche a Moor House non vi era notte che il pensiero di lui non riempisse la mia camera. Scrivendo spesso al signor Briggs per la successione, avevo chiesto se sapesse qualcosa del signor Rochester, dove abitasse e come stesse, ma come St. John aveva previsto, egli non ne sapeva nulla. Scrissi allora alla signora Fairfax per avere notizie. Ero sicura che per mezzo suo avrei potuto sapere qualcosa entro breve tempo. Mi stupì di veder passare molti giorni senza ricevere alcuna risposta, ma quando furono trascorsi 2 mesi ed ebbi un giorno dopo l'altro per tutto quel tempo atteso invano la posta, divenni preda di una struggente ansietà. Scrissi di nuovo. Forse la mia prima lettera era andata perduta. Nuove speranze seguirono rinnovati sforzi. Ma come era avvenuto poche settimane prima, esse appassirono e morirono. Non una riga, non una parola mi pervenne. Quando oltre 6 mesi furono trascorsi in vana attesa, ogni speranza svanì. Allora vidi veramente buio attorno a me. Venne una radiosa primavera, ma io ero incapace di goderne. Si avvicinò l'estate e Diana cercava di curarmi. Disse che ero pallida e volle accompagnarmi al mare. St. John si oppose, affermando che non avevo bisogno di una vita oziosa, bensì di una occupazione. La mia esistenza era priva di uno scopo e dovevo crearmene uno, e ritengo, per supplire a questa deficienza, prolungò le mie lezioni di indostano. Ed io, come una pazza, non pensai neppure di resistergli, del resto non avrei potuto. Un giorno ero più demoralizzata del solito, durante lo studio, la mia malinconia era stata provocata da una grave delusione che avevo subito. Anna m'aveva detto al mattino che vi era una lettera per me e quando scesi per prenderla ebbi quasi la certezza che la mia lunga attesa sarebbe stata alla fine appagata. Invece trovai appena una lettera d'affari di Briggs. L'amarezza fece sgorgare alcune lacrime dai miei occhi ed ora, mentre stavo decifrando le complicate lettere e i geroglifici della scrittura indiana, i miei occhi si inumidirono nuovamente. St. John mi chiamò a leggere al suo fianco. In quel momento la voce mi mancò e le mie parole si perdettero in un singhiozzo. Eravamo soli, Diana stava suonando nella sala di soggiorno, Mary si stava occupando del giardino. Era una bella giornata di maggio, chiara, soleggiata, e l'aria era leggera. Il mio compagno non espresse né sorpresa né emozione, tanto meno chiese la ragione del mio pianto. Disse soltanto, «Sospendiamo qualche minuto, Jane, fino a quando ti sarai ricomposta». E mentre io cercavo di reprimere quel parossismo di dolore, egli sedeva calmo e imperturbabile, appoggiato alla sua scrivania, guardandomi come un medico che segue con occhio di scienziato una crisi prevista e perfettamente comprensibile in un ammalato. Dopo aver represso i singhiozzi e asciugato gli occhi, mormorando qualcosa su un malessere provato al mattino, ripresi il mio lavoro e riuscii a portare a termine la lezione. St. John ripose i miei libri e dopo aver chiuso la scrivania disse «Ora, Jane, Devi fare due passi e con me. Vado a chiamare Diana e Mary. No, desidero rimanere solo con te stamani. Prendi le tue cose ed esci dalla porta della cucina. Prendi la strada che porta a Marsh Glen, ti raggiungerò fra un minuto. Non conosco la via di mezzo. In tutta la mia vita, di fronte a un carattere duro in contrasto con il mio, non ho mai conosciuto altra possibilità se non l'assoluta sottomissione o la decisa ribellione. Ho spesso adottato la prima, fino al momento in cui la seconda scoppiava in me, talora con vulcanica irruenza. Nelle circostanze attuali, non essendo il mio umore incline alla ribellione, mi mostrai sempre sottomessa a St. John e così, 10 minuti dopo, lui ed io passeggiavamo fianco a fianco sul sentiero scosceso della collina. Il vento soffiava da occidente, dalla parte della collina, e giungeva a noi portandoci il profumo della ginestra e dell'erica. Il cielo era di un purissimo azzurro. Il torrente che scendeva nel fondo del burrone, gonfio per le piogge recenti, brillava sotto i raggi del sole e rifletteva la tinta di zaffiro del firmamento. Camminando, abbandonammo il sentiero e ci inoltrammo nell'erba fresca d'un verde smeraldo, finemente trapunta di fiori bianchi e costellata di boccioli gialli. Le colline ci circondavano e la valletta in cui ci trovavamo sembrava una ferita nel loro fianco. «Riposiamoci qui», disse St. John, quando ci trovammo vicino ad una cortina rocciosa che dominava una specie di passo dal quale scrosciava una cascata. Poco lontano da noi, la montagna, priva di erbe e di fiori, aveva soltanto l'erica per coprire il suo fianco e soltanto rocce per ornamento. Il selvaggio si tramutava nell'orrido e il paesaggio, fattosi cupo, mi appariva come l'estremo baluardo della solitudine e l'ultimo rifugio del silenzio. Mi misi a sedere e St. John prese posto vicino a me. Guardava il passo e più sotto la valle. Il suo sguardo si perdeva nell'infinito e i suoi occhi riflettevano l'azzurro del cielo limpido. Si tolse il cappello e lasciò che la brezza gli accarezzasse i capelli e baciasse la fronte. Sembrava entrato in comunione col genio dell'abisso e con gli occhi pareva voler dire addio a qualche cosa. «Vedrò tutto questo ancora», disse a voce alta, «nei miei sogni, quando dormirò presso il Gange, e più tardi ancora, quando sarò sopraffatto da un altro sonno sulla riva di un più oscuro fiume». Strane parole di uno strano amore, austera passione di un patriota per la sua patria. Rimase seduto per una mezz'ora senza parlare, né a me né a se stesso, e dopo questa pausa riprese: «Jane, me ne andrò fra 6 settimane. Ho fissato il posto su una nave che partirà il 20 di giugno». «Dio ti protegga, tu lavori per lui», rispose. «Sì, questa è la mia gloria e la mia gioia. Sono il servo di un maestro infallibile. Non seguo una guida umana soggetta alle leggi imperfette e all'erroneo giudizio dei miei compagni d'argilla. Il mio re, il mio legislatore, il mio capitano è il perfettissimo. Mi sembra strano che tutti coloro che mi circondano non ardano dal desiderio di schierarsi sotto la stessa bandiera, di associarsi nella mia stessa impresa. Non tutti sono dotati della tua stessa forza e sarebbe follia per il debole marciare a fianco del forte». «Ah, non parlo dei deboli, non ci penso nemmeno. Mi indirizzo solamente a coloro che sono all'altezza del compito e in grado di adempiervi. Sono pochi, ed è difficile scoprirli. È vero, ma quando si riesce a trovarli è necessario eccitarli ed esortarli a compiere lo sforzo necessario, mostrar loro i doni di cui sono dotati, spiegare perché li hanno ricevuti, far pervenire al loro cuore il messaggio del cielo, offrir loro, per parte di Dio, un posto tra gli eletti. Se veramente sono nati per quest'opera, non sarà il loro stesso cuore ad avvertirli per primi?» Mi pareva che un fascino terribile mi avvolgesse. Tremavo all'idea di sentir pronunciare la fatale parola che avrebbe dichiarato e sancito l'incantesimo. «E cosa ti dice il tuo cuore?» domandò St. John. «Il mio cuore è muto. Il mio cuore è muto», risposi sconvolta e colpita. «Allora parlerò per lui», continuò egli con voce grave e spietata. «Jane, vieni con me in India, vieni come mia compagna e collaboratrice». Mi sembrava che il cielo e la valle mi girassero attorno e le colline mi sollevassero. Era come se avessi ricevuto un ordine dal cielo e un messaggero invisibile come quello della Macedonia avesse annunciato: «Vieni ed aiutaci». Ma io non avevo anima d'apostolo, non potevo scorgere l'araldo divino, non potevo ricevere il suo comandamento. «Oh, St. John», gridai, «abbi pietà di me». Imploravo un essere che non conosceva né la pietà né il rimorso, quando era in gioco ciò che egli riteneva essere il suo dovere. Egli continuò, il Dio e la natura ti hanno creata per essere moglie di un missionario e hanno elargito i loro doni non al tuo corpo, bensì al tuo intelletto. Tu sei fatta per l'operosità, non per l'amore. Devi divenire la moglie di un missionario e lo sarai. Sarai mia, io ti reclamo, non per la mia felicità, ma per servire il mio Signore. Non ne sono degna, non ho vocazione per questo, dissi. Egli si aspettava queste prime obiezioni, non ne fu irritato. Mentre lo guardavo appoggiato alla montagna con la testa tra le mani, dominando i propri impulsi, ebbi l'impressione che egli fosse preparato ad una lunga e penosa opposizione e si fosse armato di pazienza per resistere fino a che fosse essa stata annientata. E tale annientamento sarebbe stata la sua vittoria. L'umiltà, Jane, è la base di ogni cristiana virtù. Eri nel giusto quando hai affermato che non ti senti degna di quest'opera, ma chi ne è degno? O chi, anche se realmente chiamato, considera se stesso all'altezza del compito che lo attende? Io, per esempio, non sono che polvere e cenere. Con San Paolo mi riconosco il più grande dei peccatori, ma non devo permettere che questa coscienza della mia indignità possa essermi d'ostacolo. Conosco il mio capo. Egli è giusto quanto potente e se ha scelto uno strumento fragile per adempiere a un compito immane, egli supplirà con le sconfinate riserve della sua provvidenza all'insufficienza dei mezzi, fino alla fine dell'opera intrapresa. Segui il mio pensiero, Jane, abbi fiducia in me, è la roccia dei secoli che ti offro per appoggio. Certamente sopporterà il peso della tua umana debolezza. Non capisco la vita dei missionari, non ho mai studiato il loro lavoro. Ebbene, umile come sono, posso darti l'aiuto di cui hai bisogno. Posso tracciarti la strada ora per ora, starti sempre vicino, appoggiarti in qualsiasi momento. Così farò in principio. Presto, io conosco le tue possibilità. Sarai forte e abile quantomeno, non avrai più bisogno del mio aiuto. Ma dove troverò la forza per questa impresa? Non mi sembra di possederla. Niente parla o si commuove in me alle tue parole. Nessuna luce si accende, nessuna vita nuova si agita, nessuna voce mi consiglia o mi incoraggia. Oh, vorrei che tu potessi leggere nella mia anima in questo momento. Io mi sento come imprigionata in una cella senza luce e sconvolta dalla paura di essere persuasa a tentare ciò che non sarò mai in grado di compiere. Ho una risposta da darti. Ascolta, ti ho seguita da vicino dal giorno in cui ti ho incontrata e sei stata oggetto di uno studio attento da parte mia per 10 mesi. Ti ho sottoposta in questo periodo a dure prove e cosa ho visto e cosa ne ho dedotto? Quando eri maestra al villaggio ti ho vista compiere puntualmente e con profondo senso del dovere un lavoro che non si conveniva alle tue abitudini e alle tue inclinazioni. Eppure ti ho vista compierlo con abilità e tatto. Sai dominarti e riesci ad avere ragione di te stessa. La calma con cui hai accolto la notizia dell'improvvisa eredità mi ha convinto che non hai sete di ricchezze. Nella rapida decisione che ti ha fatto dividere in quattro la fortuna ricevuta, tenendone una soltanto per te e rinunciando alle altre in nome di un'astratta giustizia, ho riconosciuto un'anima capace di offrirsi alla fiamma del sacrificio. Nella remissività con cui, seguendo un mio desiderio, hai abbandonato uno studio che ti stava a cuore per iniziarne un altro che interessava soltanto a me, nella instancabile perseveranza con cui l'hai seguito, nell'indomabile energia e nell'irremovibile volontà con le quali ne hai superato le difficoltà, mi sono reso conto che tu possedevi le qualità che cercavo, Jane. Tu sei docile, diligente, disinteressata, leale, costante e coraggiosa, gentile ed eroica. Smetti di diffidare di te stessa. Io credo in te senza riserve. In qualità di direttrice delle scuole indiane e di mia assistente tra le donne di quel paese, il tuo appoggio non avrà prezzo per me. Un manto di ferro si stringeva intorno a me. La persuasione si stava impadronendo di me con passo lento ma sicuro. Potevo chiudere gli occhi, ma le ultime parole di St. John riuscivano a farsi strada nell'animo mio, una strada che prima mi pareva impraticabile ed ora invece relativamente accessibile. Il lavoro propostomi, che fino a poco prima mi sembrava così vago, così disperatamente sconfinato, alla luce delle sue parole si chiariva e tra le sue mani assumeva una forma definita. Egli aspettava una risposta. Chiesi un quarto d'ora per pensarci prima di arrischiarmi a dare una risposta. Molto volentieri, rispose, e alzatosi si diresse verso il passo, dove si sdraiò in mezzo all'erica ed aspettò in silenzio. Posso fare quello che egli mi chiede? Sono costretta a riconoscerlo, meditavo. O meglio, lo potrei se la mia vita fosse risparmiata. Ma penso che non resisterai a lungo sotto il sole dell'India. Ma a lui cosa importerebbe? Quando fosse giunto il momento della mia morte, egli mi consegnerebbe in tutta serenità e santità al Dio al quale mi ha offerta. La situazione è chiara dinanzi a me. Lasciando l'Inghilterra lascerei un paese amato ma vuoto. Il signor Rochester non è qui, ed anche se ci fosse, cosa significherebbe per me? Il mio destino è ora di vivere senza di lui. Niente di più assurdo, niente di più vile, aspettare che un giorno o l'altro le circostanze possano cambiare in modo che sia possibile riunirmi a lui. Naturalmente, come disse una volta St. John, posso cercare un altro interesse nella vita da sostituire a quello perduto. L'occupazione che egli mi offre in questo momento non è forse la più gloriosa che Dio possa assegnare all'uomo? E l'uomo accettare? Non è forse un compito capace di riempire con le nobili cure e i sublimi risultati il vuoto lasciato dagli affetti distrutti e dalle speranze svanite? Credo di dover rispondere di sì, eppure quest'idea mi fa tremare. Ahimè, seguendo St. John, abbandonerei metà di me stessa. Se andrò in India mi voterò a prematura morte. E come sarà riempito l'intervallo tra la partenza dall'Inghilterra per l'India e la partenza dall'India per l'aldilà? Lottando fino alla consunzione di me stessa per compiacere St. John, riuscirò a soddisfarlo fino all'estremo confine delle sue esigenze? Se dovrò andare con lui, se dovrò compiere il sacrificio che egli mi chiede, lo farò integralmente. Deporrò sull'altare il mio cuore, farò intero l'olocausto di me stessa. Egli non mi amerà mai, ma mi approverà. Gli mostrerò energie insospettate, risorse che non ha mai conosciuto in me. Sì, io sarò capace di lavorare con la sua stessa intensità e senza lamentarmi. È dunque possibile acconsentire alla sua richiesta, ma vi è una condizione terribile: diventare sua moglie e non avere come coniugale affetto che quell'arcigno gigante simile a una roccia sulla quale scorre il torrente per poi precipitare nell'abisso. Egli mi considera come un soldato capace di battersi e nulla più. Se non acconsento a sposarlo, certo non avrò pentirmene. Ma posso lasciargli portare a termine il suo piano, mettere in pratica i suoi disegni e affrontare la cerimonia nuziale? Posso ricevere da lui l'anello, sopportare tutte le forme dell'amore, sono certa che lo osserverebbe scrupolosamente, e avere la coscienza che il suo spirito è completamente assente? Posso sopportare il pensiero che ogni godimento che mi concederà sarà un sacrificio dei suoi principi? No. Un simile martirio sarebbe orribile. Lo accompagnerò come sorella, non come moglie. Lo guardai in cima alla collina. Egli giaceva disteso come una colonna abbattuta. Volse il volto verso di me e mi guardò con uno sguardo acuto e penetrante. Si alzò e mi si avvicinò. Sono pronta a venire in India se potrò conservare la mia libertà. La tua risposta richiede una spiegazione, egli disse. Essa non è chiara. Tu sei stato fino ad ora mio fratello di adozione, continuiamo così, faremo meglio a non sposarci. Scosse il capo. La fraternità d'adozione non basta in questo caso. Se tu fossi mia sorella sarebbe un'altra cosa. Verresti con me e non avrai bisogno di moglie. Ma così come stanno le cose, la nostra unione deve essere consacrata, suggellata dal matrimonio. Ostacoli di natura pratica si oppongono a qualsiasi altro piano. Non lo capisci, Jane? Rifletti un attimo e il tuo buon senso ti guiderà. Riflettei, e il mio buon senso mi convinse sempre più che non ci amavamo, come debbono amarsi un marito e una moglie. Ne conseguiva che non avremmo dovuto sposarci. St. John, ribattei, io ti considero come un fratello e tu guardi a me come a una sorella. Continuiamo così. Non possiamo, non possiamo, rispose con breve secca determinazione. Hai detto che venivi con me in India, ricordalo, l'hai detto. A una condizione. Va bene, ma il punto principale è di partire con me dall'Inghilterra, cooperare con me nel mio futuro lavoro e a questo non ti sei opposta. Hai già dato mano all'aratro, sei troppo costante per abbandonarlo. Hai un solo scopo dinanzi a te, cercare di svolgere nel migliore dei modi il lavoro iniziato. Cerca di semplificare i tuoi complicati interessi, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, i tuoi scopi. Riunisci le tue considerazioni in un solo scopo. Portare a compimento con tutte le tue forze il compito che Dio ti ha assegnato. Per far questo hai bisogno di un collaboratore, non di un fratello, che sarebbe un legame troppo debole, bensì di un marito. Anch'io non voglio una sorella può essermi portata via da un giorno all'altro, mentre su una moglie posso avere un'influenza sicura e so inoltre di averla al mio fianco per tutta la vita. Tremavo alle sue parole, eppure ne ero come soggiogata. Cerca un'altra donna, St. John, cercane un'altra che ti convenga di più. Che convenga ai miei propositi, alla mia vocazione. Ti ripeto che non è all'insignificante persona fisica, all'essere umano con i suoi sensi e con il suo egoismo che si deve dare una compagna, bensì al missionario. Ebbene, io darò al missionario le mie energie, poiché è questo che gli occorre, e non me stessa. Sarebbe soltanto come aggiungere il guscio al frutto. Di quello non ne hai bisogno, esso può rimanere cosa mia. Non puoi, non devi. Credi forse che Dio possa essere soddisfatto di un'offerta a metà? Può egli accettare un sacrificio incompleto? È la causa di Dio che io difendo ed è sotto la sua bandiera che io ti pongo. Non posso accettare in nome suo una dedizione incompleta, è necessario che sia intera. Oh, darò il mio cuore a Dio. Tu non ne hai bisogno. Non potrei giurare, lettrice, che non vi fosse un sarcasmo represso nel tono con cui pronunciai queste parole e nel sentimento che le suggeriva. Fino a quel momento avevo temuto St. John perché non l'avevo capito. Mi aveva tenuto in scacco perché il mio giudizio era incerto e fino allora non avrei saputo dire quanto vi era in lui di santo e quanto di mortale. Ma quella conversazione mi aveva rivelato molte cose e l'analisi della sua natura si sviluppava davanti ai miei occhi. Vidi le sue debolezze e le compresi. Capii che stando seduta sul campo di Erica giacevo ai piedi di un uomo dotato, è vero, di grande prestanza fisica, ma debole quanto me. Il velo che copriva la sua durezza e il suo dispotismo era caduto, ed io, di fronte alle sue imperfezioni, mi feci coraggio. Mi trovavo con un eguale, con un uomo col quale potevo discutere e al quale, volendo, avrei potuto resistere. Dopo le mie ultime parole, egli era rimasto in silenzio. Mi arrischiai allora a lanciargli un'occhiata. I suoi occhi penetranti, fissi su di me, esprimevano intenso stupore. Ella è sarcastica, sembrava pensare. Sarcastica verso di me. Che cosa significa questo tuo sguardo? Non dimentichiamo che si tratta di cosa solenne, mi disse dopo un poco, di cosa della quale non possiamo né pensare né parlare alla leggera, senza incorrere in peccato. Credo, Jane, che tu fossi sincera quando dicesti di voler dare il tuo cuore a Dio. È proprio quello che ti chiedo. Una volta staccato il tuo cuore dagli uomini e dedicatolo al Creatore, la venuta nel regno di Dio in terra sarà la tua delizia e il tuo unico scopo. La tua vita e la tua attività saranno da quel momento protese verso questo fine e vedrai quale impeto tratteranno i nostri sforzi dall'unione fisica e spirituale del matrimonio, la sola unione che dà carattere di continuità ai destini e ai disegni degli uomini. E se riuscirai a passare sopra tutti i capricci di minor conto, alle terrene difficoltà e alle delicatezze del sentimento, superando tutti gli scrupoli relativi all'intensità, alla forza o alla fallibilità delle tue personali inclinazioni, proverai allora l'urgente bisogno di concludere questa unione. Davvero? Dissi asciuttamente, e osservando le sue fattezze belle nella loro armonia, ma stranamente impressionanti nella loro severità. E la sua fronte imperiosa ma non aperta, i suoi occhi luminosi, profondi, indagatori ma non teneri, la sua figura alta, imponente, cercai di figurarmi di essere sua moglie. No, mai! Avrei potuto essere la sua compagna, il suo aiuto, e come tale avrei potuto attraversare l'oceano per seguirlo nel lontano Oriente e nei deserti dell'Asia, avrei potuto ammirare ed emulare il suo coraggio, la sua devozione, il suo vigore. Accettare il suo dominio, sorridere senza essere infastidita alla sua indomita ambizione, separare il cristiano dall'uomo, stimare profondamente il primo e perdonare generosamente al secondo. Certo, avrei sofferto molto legandomi a lui soltanto in questa forma. Il mio corpo sarebbe stato sottoposto a un giogo opprimente, ma almeno il mio cuore e la mia mente sarebbero stati liberi. Il mio io non sarebbe stato intaccato e avrei conservato intatti i miei sentimenti, con i quali comunicare nei momenti di sconforto. Sarebbero rimasti nella mia mente dei recessi soltanto miei, nei quali nessun altro sarebbe penetrato. In essi i miei sentimenti si sarebbero mantenuti freschi e protetti. La sua austerità non avrebbe potuto intaccarli, né il suo passo da soldato calpestarli. Come moglie, invece, sempre al suo fianco, sempre costretta, sempre domata, forzata a soffocare il fuoco della mia natura, obbligandolo ad ardere segretamente senza mai poter lanciare un grido fino a che la fiamma prigioniera non avesse consumato giorno per giorno la mia esistenza. No, questo sarebbe stato veramente intollerabile. St. John, esclamai scuotendomi dalla lunga meditazione. Ebbene, rispose con indifferenza, te lo ripeto, sono disposta a seguirti come assistente missionaria, ma non come moglie. Non potrei sposarti e divenire parte di te. Devi diventare parte di me, rispose con fermezza, altrimenti il nostro accordo sarebbe vuoto di senso. Come potrei io, che non ho ancora 30 anni, portare con me in India una ragazza di 19 che non sia mia moglie? Come potremmo restare sempre insieme, talvolta in solitudine, talvolta in mezzo alle tribù selvagge, non essendo marito e moglie? Oh, staremo benissimo, risposi brevemente, come se fossi realmente tua sorella, oppure un uomo e un pastore come te. Tutti sanno che tu non sei mia sorella e non posso quindi presentarti come tale. Tentare di farlo sarebbe provocare ingiuriosi sospetti su di te e su di me. Del resto, sebbene tu sia dotata di una mente quadrata come quella di un uomo, hai cuore di donna e sarebbe impossibile. Sarebbe invece possibile, affermai con tono sdegnoso, perfettamente possibile. Ho cuore di donna, ma non per te. Verso di te io provo soltanto un sentimento di amicizia, di franchezza, di fedeltà e di fratellanza, se così ti piace. Il mio atteggiamento verso di te è la rispettosa sottomissione del neofita al sacerdote. Nulla di più, non temere. È proprio quello che cerco, disse, come parlando tra sé e sé. È proprio quello di cui ho bisogno. Se vi sono degli ostacoli su questa strada, dovranno essere rimossi. Jane, non ti pentirai di avermi sposato. Sii sicura di questo. Noi dobbiamo sposarci. Te lo ripeto ancora, non c'è altra via. E certamente sufficiente amore seguirà il nostro matrimonio, così da rendere l'unione perfetta anche ai tuoi occhi. Disprezzo le tue idee sull'amore. Non potei trattenermi dal dire, dopo essermi levata ritta dinanzi a lui con le spalle alla roccia. Disprezzo il sentimento falso che mi offri. Sì, St. John, e disprezzo anche te, quando osi offrirmelo. Egli mi guardò fissamente, stringendo le labbra. Non sarebbe stato facile dire se fosse rimasto sorpreso o irritato dalle mie parole. Egli era capace di dominarsi completamente. «Non mi sarei aspettato di udire simili parole dalla tua bocca», disse. «Non credo di avere detto nulla che meritasse il disprezzo». Rimasi toccata dal suo tono e conquistata dal suo contegno nobile e calmo. «Perdona le mie parole, St. John, ma è stata colpa tua se sono stata costretta a pronunziarle. Hai toccato un argomento sul quale le nostre nature non sono d'accordo, un argomento che non potremo mai discutere. La sola allusione all'amore è un pomo di discordia tra noi». Che accadrebbe se dovessimo affrontarne la realtà? Cosa proveremmo? Caro cugino, abbandona il tuo progetto di matrimonio. Dimenticalo. No, disse. È un progetto lungamente accarezzato e solo che possa darmi la certezza di conseguire i miei fini grandiosi. Ma non voglio più insistere per il momento. Domani partirò per Cambridge. Ho molti amici laggiù che desidero salutare. Starò lontano 4 notti. In questo spazio di tempo rifletti sulla mia proposta. E non dimenticare che se la respingerai... Non respingerai me, ma Dio. Per mezzo mio, egli ti affiderà una nobile missione e soltanto come mia moglie potrai compierla. Rifiutando di sposarmi, condannerai te stessa per sempre ad un'esistenza di egoistica tranquillità e di sterile oscurità. Bada che in tal caso sarai posta tra coloro che hanno rinnegato la fede e che sono peggiori degli infedeli stessi. Aveva finito, allontanando lo sguardo da me ancora una volta. Guardò il fiume, guardò le colline... Ma questa volta i suoi sentimenti erano rinchiusi nel suo cuore. Non ero degna di sentirli esprimere. Mentre tornavo verso casa al suo fianco, potei leggere chiaramente nel suo silenzio ciò che provava per me. Il disappunto di una natura austera e dispotica che aveva incontrato resistenza dove si aspettava sottomissione. La disapprovazione di un freddo inflessibile giudice che aveva scoperto in un altro essere sentimenti e opinioni per i quali non poteva provare simpatia. In altre parole... Un uomo che avrebbe desiderato costringermi all'obbedienza e che soltanto, in virtù del suo spirito di cristiana rassegnazione, sopportava pazientemente la mia perversità e mi concedeva un lungo periodo di tempo per riflettere e per pentirmi. Quella sera, dopo che ebbe baciato le sue sorelle, gli credette meglio dimenticarsi anche di stringermi la mano e salì in silenzio nella sua camera. Sebbene non lo amassi, provavo per lui una sincera amicizia e fui urtata da quella voluta omissione. Fui tanto urtata che alcune lacrime mi scesero sul viso. «Vedo che tu e St. John vi siete questionati durante la passeggiata alla brughiera», disse Diana. «Raggiungilo, Jane, egli ti aspetta nel corridoio e sono certa che tutto si accomoderà». Non sono molto orgogliosa in circostanze del genere, pensando alla mia felicità piuttosto che alla fierezza corsi da lui. Egli era immobile ai piedi delle scale. «Buonanotte, St. John», dissi. «Buonanotte, Jane», rispose calmo. «Ed ora diamoci la mano», aggiunsi. Che pressione fredda e leggera impresse alle mie dita. Egli era profondamente dispiaciuto di quanto era accaduto quel giorno. La cordialità non poteva scaldarlo, né le lacrime commuoverlo. Non c'era possibilità di una felice riconciliazione, di un sorriso affettuoso, di una parola generosa. Come cristiano era paziente e placido». E quando gli domandai se mi avesse perdonato, mi rispose che non soleva rammentarsi delle ingiurie, non aveva nulla da perdonare, poiché non era stato offeso. Con queste parole si allontanò. Avrei preferito che mi avesse gettata a terra.